primo luogo c'è bisogno di chiarezza, l'ho detto prima delle elezioni e lo dico ora. E il primo dato molto chiaro è che siamo di fronte ad una sconfitta storica della sinistra e del centro-sinistra. Così anche in Emilia-Romagna. La prima coalizione è il centrodestra, il primo partito è il Movimento 5 Stelle. Cambia tutto. Come Leo avevamo visto l'onda, avevamo capito che la questione sociale domandava un cambiamento radicale, ma non abbiamo intercettato questa onda. Quindi il nostro risultato è negativo, ed è negativo anche in Emilia-Romagna, seppure alcuni dati si discostano da quelli nazionali, come nel collegio uninominale di Bologna, ma certo questa non è e non può essere una consolazione. Allora io voglio proporre un ragionamento politico. Non si può tergiversare, bisogna ricominciare con serietà, partendo da una scelta radicale e netta di discontinuità rispetto alle esperienze di questi anni e senza ambiguità. Avevo detto che rincorrendo il centrismo avrebbe vinto la destra e il Movimento 5 Stelle, e così è stato. Il nostro progetto di Leo non è certamente stato coerente con le aspettative, anzi è nettamente al di sotto di queste aspettative, ma abbiamo dato un riferimento e noi di Leo lavoreremo per ricostruire il campo dei progressisti, riformisti e della sinistra di governo. Questa è una necessità più che mai affermata dai risultati elettorali e quindi di qui dobbiamo ripartire. Questo è il compito nostro, è il compito di Leo e sulla base di questo coerentemente porteremo avanti questo lavoro. Ci sono i tempi, ci saranno i tempi per una riflessione. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Toccherà prima di tutto al Movimento 5 Stelle dire che cosa vorrà fare e quali proposte vorrà fare. Per quello che ci riguarda, rimango coerente con le cose dette fino al giorno prima delle elezioni. Per noi non ci possono essere pasticci né governi con la destra, per noi ci sono i temi fondamentali. Lavoro, una svolta netta rispetto alla precarizzazione del lavoro, fisco, progressività, welfare. Questi sono i temi sulla base dei quali noi lavoreremo in Parlamento. C'è bisogno di ridare chiarezza, identità, prospettiva, valori, riferimenti programmatici. Diversamente i risultati ci dicono che gli elettori guardano da un'altra parte. Se vogliamo invertire questa tendenza molto negativa per l'Italia, dobbiamo ripartire da qua. Leo lavorerà per questo. La prima scadenza sono le elezioni dei presidenti delle Camere e del Senato. E soprattutto si tratterà di vedere che scelte vorrà fare il Movimento 5 Stelle. Bisogna partire dal fatto che lo scenario politico in Emilia-Romagna è radicalmente cambiato. Dunque occorre, per invertire questa tendenza, rilanciare un progetto vero di governo, della sinistra di governo e delle forze progressiste. I dati parlano da soli e sono molto chiari. È una sconfitta politica della sinistra e del centro-sinistra che ha radici molto chiare. Il fatto che la lettura della società, la questione sociale, i problemi delle persone hanno spinto tantissimi elettori del centro-sinistra. Quante volte ho detto in questa campagna elettorale che c'era una rottura profonda tra gli elettori del centro-sinistra e le politiche fatte. Fatemi dire che su questo punto è evidente che questa riflessione era giusta e motivata. Bisogna guardare in faccia i problemi, non aggirarli, comprenderli e decidere poi come sinistra di rappresentarli e di costruire proposte che siano in grado di cambiare le condizioni reali delle persone. Ma io penso che questo voto ci dica anche un'altra cosa, che l'idea di una politica calata dall'alto, con messaggi calati dall'alto, sia un'idea sbagliata. Prima di tutto per noi, per la sinistra, per il centro-sinistra, per le forze riformiste, noi dobbiamo stare tra le persone. Se una persona ha paura perché non riesce a curarsi, ha paura perché ci sono gli immigrati. Ha paura. Se lì non c'è la sinistra che è in grado di dargli un'altra prospettiva, allora vince la destra. Questa è la scelta che dobbiamo fare. Ricominciare a rappresentare i problemi.